Capitolo 9 di Le avventure d'Alice nel Paese delle Meraviglie. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Renzo Clerico. Le avventure d'Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll. Traduzione di Teodorico Pietrocola. Capitolo 9. Storia della falsa testuggine. «Non potete credere quanto son lieta di ritrovarvi, bambina mia», disse la duchessa, mettendo amichevolmente il suo braccio in quello di Alice e camminando insieme. Alice era lieta di rivederla in tale buon umore e pensò che forse era il pepe che l'aveva resa tanto irritabile quando la vide in cucina. «Allorché sarò duchessa», disse fra sé, ma senza troppo sperarlo, «non voglio aver punto pepe nella mia cucina. La minestra è buona anche senza. Chissà che non sia il pepe che rende la gente con tanto piccosa?» continuò tutta lieta d'aver scoperta una specie di nuova teoria. «È l'aceto che la rende aspra, è la camomilla che la rende amara, e sono i confetti e cose simili che addolciscono il carattere dei bambini. Vorrei che si conoscesse ciò. Le persone non sarebbero tanto tirchi a darcene». E così discorrendo, avea quasi dimenticata la duchessa, e trasaltò quando si udì dire all'orecchio: «Cara mia, voi avete la testa d'altro e dimenticate di parlare con me. Non potrei dirvene ora la morale, ma me ne ricorderò fra breve». «Forse non ne ha», osservò cautamente Alice. Che bimba», disse la duchessa, «ogni cosa ha la sua morale, purché voi la possiate trovare», e si strinse più presso ad Alice mentre parlava. Ad Alice non piacque l'essere così stretta con lei, primo perché la duchessa era bruttissima, secondo perché per la sua altezza ella appoggiava il mento sulla spalla d'Alice. Ora quel mento era spiacevolmente acuto, ma pure non volle essere scortese e sopportò quella noia come meglio poté. «Il giuoco va meglio ora», disse così per alimentare la conversazione. «Eh sì», rispose la duchessa, «e questa n'è la morale. È amore, è amore, è il pazzeron d'amore che fa girare il mondo, ed il mio cuore». «Ma qualcheduno ha detto invece», bisbigliò Alice, «se ognuno badasse le proprie faccende, il mondo girerebbe meglio». «Bene, l'una vale l'altra», disse la duchessa, e mentre conficcava il suo mento acuto nelle spalle d'Alice, continuò: «E la morale di ciò la è questa. Guardate al franco, gli spiccioli si guarderanno da sé». «Come si diletta a trovare la morale in ogni cosa», pensò Alice. «Scommetto che siete sorpresa perché non vi cingo la vita col mio braccio», disse la duchessa dopo qualche istante, «ma gli è perché non so che razza d'umore abbia il vostro fenicontero. Facciamo la prova?» «Potrebbe mordervi», rispose Alice, che non ne voleva di quegli esperimenti. «È vero», disse la duchessa, «i fenicontero e la senape pizzicano entrambi. E la morale è questa: chi si rassembra, s'assembra». «Ma la senape non è un uccello», osservò Alice. «Bene, come sempre», disse la duchessa. «Voi dite ogni cosa assai benino». «È un minerale, credo», disse Alice. «Certo», rispose la duchessa, che pareva desiderasse da consentire a tutte le cose che diceva Alice. «Qui vicino c'è una grande miniera di senape. E la morale di ciò è questa: la miniera è la maniera di gabbar la gente intiera». «Oh, lo so», esclamò Alice, che non aveva badato alle parole della duchessa. «È un vegetale, non ne ha l'apparenza, ma lo è». «Proprio così», disse la duchessa. «E la morale di ciò è questa: siate quello che volete parere, o se volete che ve lo dica più semplicemente, non vi crediate mai d'essere altra se non quella che apparite ad altri d'essere, o d'essere stata, o che possiate essere. E l'essere non è altro che l'essere di quell'essere, che l'essere dell'essere, e non altrimenti. Credo che l'intenderei meglio, disse Alice con molta garbatezza, se me la scriveste, ma non posso seguirvi con la mente quando la dite. Questo è nulla rimpetto a quel che potrei dire se ne avessi voglia, soggiunse la duchessa, contenta come una Pasqua. Non vi incomodate a dirne di più lunghe di quella che avete recitata orora, disse Alice. Che incomodo, rispose la duchessa. Vi fa un regalo di tutto ciò che ho detto sino ad ora. È un regalo che costa niente, pensò Alice. Buono che non fanno di quei regali nei giorni natalizi. Ma non osò dir questo a voce alta. Sempre meditabonda? Domandò la duchessa mentre affondava quel suo mento acuminato sull'omero della bambina. O ben di che, rispose vivamente Alice, perché cominciava a sentirsi annoiata. E la duchessa, come i porci ne hanno di volare, e l'amò. Qui, con gran sorpresa d'Alice, la voce della duchessa andò morendo e si spense in mezzo alla parola morale che tanto gradiva. Il braccio che era nel suo cominciò a tremare. Alice alzò gli occhi e vide che la regina stava davanti ad esse, le braccia conserte, accigliata e spaventevole come un uragano. «Maestà, che bella giornata!» balbettò la duchessa con voce debole e fioca. «Vi do a tempo un avvertimento», tuonò la regina, battendo fieramente il terreno col piede. «O voi o la vostra testa dovranno abbandonare il giardino, e ciò subito! Scegliete!» La duchessa scelse e fuggì via in un attimo. «Ritorniamo al gioco», disse la regina ad Alice. Ma Alice era troppo spaventata, non osò rispondere, e la seguì lentamente sul terreno. Gli invitati, intanto, profittando dell'assenza della regina, si riposavano all'ombra. Però, appena la videro ricomparire, ritornarono ai posti loro. La regina fece soltanto capir loro che se avessero ritardato un momento, avrebbero perduta la vita. Mentre giocavano, la regina continuava a querelarsi con altri giocatori, gridando sempre «Mozzategli il capo!» oppure «Mozzatele il capo!». Coloro che erano sentenziati a morte erano guardati da soldati che dovevano cessare di servire d'archi al gioco, e così in meno di mezz'ora non c'erano più archi e tutti i giocatori, eccettuati il re, la regina ed Alice, erano guardati e condannati nel capo. Finalmente la regina lasciò il gioco, tutta sbuffante ed anelante, e disse ad Alice «Hai veduto la falsa testuggine?» «No», disse Alice, «non so neppure che sia la falsa testuggine». «È quella con cui si fa la minestra di falsa testuggine», disse la regina. «Non ne ho mai veduto né udito parlare», soggiunse Alice. «Vieni dunque», disse la regina, «ed essa ti racconterà la sua storia». Mentre andavano insieme, Alice sentì che il re diceva a voce bassa a tutti i condannati, «Fo grazie a tutti!» «Oh, ne son lieta», disse fra sé Alice, «perché sapete, la nostra fanciulla era mestissima vedendo tanta gente condannata a morte dalla regina». Tosto giunsero vicino a un grifone, accoccolato e dormente al sole. Se voi non sapete che è il grifone, guardate la vignetta. «Su, su, pigro!» disse la regina. «Conducete questa fanciulla a vedere la falsa testuggine, che le farà il racconto della sua vita». «Quanto a me, debbo tornare indietro per far eseguire alcune sentenze di morte». E andò via, lasciando Alice sola col grifone. Non piacque ad Alice l'aspetto della bestia, ma poi, riflettendo che il rimanere col grifone non era tanto pericoloso per lei quanto il rimanere con quella selvaggia regina, stette lì ed aspettò. Il grifone si levò, si stropicciò gli occhi, aspettò che la regina sparisse totalmente e poi si mise a sghignazzare. «Che commedia!» disse il grifone, parlando un po' a se stesso, un po' ad Alice. «Qual è la commedia?» domandò Alice. «È lei stessa!» soggiunse il grifone. «È un ruzzo che ha in testa, ma le teste non son mai mozzate perciò. Venite!» «Qui ognuno comanda venite!» osservò Alice, mentre lo seguiva lentamente. «Non sono stata mai così comandata in tutta la mia vita!» Non si erano di molto inoltrati quando videro a una certa distanza la falsa testuggine, che sedeva mesta e soletta sull'orlo di una rupe, ed essendosi avvicinati un poco più, Alice sentì che sospirava come se le si spezzasse il cuore. Ella ne ebbe compassione. «Perché si duole?» domandò il grifone. E il grifone rispose un po' su un po' giù, come dianzi. «È un ruzzo che ha in testa, non ha dolore di sorta, venite!» E andarono verso la falsa testuggine che li riguardò con certi occhioni ripieni di lagrime, ma senza far motto. «Questa fanciulla», disse il grifone, «vorrebbe sentire la vostra storia, vorrebbe». «Gliela racconterò», rispose la falsa testuggine con voce profonda e sepolcrale. «Sedete e non dite una parola sin che io abbia terminato». E sedettero, e per qualche minuto niuno fiatò. Intanto Alice osservò fra sé: «Non so come mai terminerà, se non comincia mai», ma aspettò pazientemente. «Una volta», disse finalmente la falsa testuggine, con un gran sospirone, «io era una vera testuggine». Quelle parole furono seguite da un altro lunghissimo silenzio, interrotto soltanto da qualche «icr» dal grifone e da singhiozzi continui della falsa testuggine. Alice stava per levarsi e dirle «grazie della vostra storia interessante», quando rifletté che essa doveva dire qualcosa di più, e sedette tranquillamente senza far motto. «Quando eravamo piccini», continuò la falsa testuggine, un poco più quieta, ma sempre singhiozzando, «andavamo a scuola, al mare. La maestra era una vecchia testuggine, e noi la chiamavamo Tartaruga». «Perché la chiamavate Tartaruga, se non era tale?» domandò Alice. «La chiamavamo Tartaruga perché ci insegnava a tartagliare», disse la falsa testuggine con dispetto. «Avete poco comprendonio. Vi dovreste vergognare di far questioni tanto semplici», aggiunse il grifone. E poi zittirono, ed entrambi fissarono gli occhi sulla povera Alice, che le pareva sprofondarsi sotterra. Finalmente il grifone disse alla falsa testuggine: «Vai innanzi, comare, ma non andar per le lunghe, sai?» E così continuò: «Andavamo a scuola al mare, benché voi non lo crediate». «Non ho mai detto ciò», interruppe Alice. «Ma sì», tuonò la falsa testuggine. «Zitta!» soggiunse il grifone prima che Alice avesse potuto rispondere. La falsa testuggine continuò: «Noi fummo educate benissimo, infatti andavamo a scuola ogni giorno». «Anch'io andavo a scuola ogni giorno», disse Alice. «Non bisogna vantarsi per così poco». «E avevate degli extra?» domandò la falsa testuggine con qualche ansietà. «Sì», rispose Alice, «imparavamo il francese e la musica». «E il bucato?» disse la falsa testuggine. «No, davvero?» disse Alice tutta corrucciata. «Ah! La vostra dunque non era una buona scuola», disse la falsa testuggine, come se si sentisse sollevata. «Nella nostra c'era alla fine del programma extra, francese, musica e bucato». «Ma non ne avevate bisogno», disse Alice. «Voi vivevate nel fondo del mare». «Non ho avuto mai mezzi per impararlo», soggiunse sospirando la falsa testuggine. «Così seguì soltanto i corsi ordinari». «Cioè?» domandò Alice. «A reggere e stridere prima di tutto», rispose la falsa testuggine, «e poi le diverse operazioni dell'aritmetica: ambizione, distrazione, bruttificazione e derisione». «Non ho mai sentito parlare di bruttificazione», disse Alice. «Che mai?» Il grifone levò le due zampe all'aria in segno di sorpresa, esclamò: «Mai sentito parlare di bruttificazione? Ma sapete che significa bellificazione, eh?» «Sì», rispose Alice, ma un po' dubbiosa. «Significa rendere qualche cosa più bella». «Ebbene», continuò il grifone, «se non sapete che significa bruttificare, voi siete una sciocca». Alice non si vedeva incoraggiata a fare altre domande, così si rivolse alla falsa testuggine e disse: «Che altro dovevate imparare?» «Ecco, c'era la stoia», rispose la falsa testuggine, contando i soggetti ad uno sulle natatoie. «La stoia antica e moderna, con la girografia. Poi il disdegno. Il maestro di disdegno era un vecchio grongo e veniva una volta alla settimana. Ci insegnava il disdegno, il passaggio e la frittura ad occhio». «E questa a chi rassomigliava ella?» disse Alice. «Non ve la potrei mostrare», rispose la falsa testuggine, «perché vedete, son tutto d'un pezzo. Il grifone non l'ha mai imparata». «Non ebbi tempo», rispose il grifone, «ma studiai le lingue classiche, ebbene. Ebbi per maestro un vecchio granchio, sapete?» «Non andai mai da lui», disse la falsa testuggine con un sospiro. «Mi dissero che insegnava catino e gretto». «Proprio così», disse il grifone, sospirando anche lui. Ed entrambe le bestie nascosero la faccia fra le zampe. «Quante ore di lezione avevate al giorno?» disse Alice prontamente, per mutare argomento. 10 ore il primo giorno», rispose la falsa testuggine. 9 il secondo e così discorrendo». «Che metodo curioso!» esclamò Alice. «Ma è questa la ragione perché si chiamano lezioni», osservò il grifone, «perché soffrono lesioni ogni giorno». Era nuova quell'idea per Alice e ci pensò su un poco prima di fare quest'altra osservazione. «Allora avevate vacanza l'undecimo giorno?» «S'intende», disse la falsa testuggine. «E come facevate nel duodecimo?» domandò vivamente Alice. Ma il grifone l'interruppe e disse con voce risoluta: «Basta in quanto alle lezioni. Dille ora qualche cosa dei giochi». Fine del capitolo 9.